Nessuno dei sanguinosi e tristi racconti che gli aveva sentito narrare nella sua infanzia dalla strana donna gli era mai parso più spaventoso di questo. Nessuno lo aveva mai fatto tremare come questo. Ad un tratto ricordò il pensiero balenatogli una volta in mente, in una dolce sera lontana, nel silenzio della pineta interrotto appena dal canto del galeotto pastore. «È stata in carcere anche?» domandò. «Sì, credo una volta. Furono trovati in casa sua certi oggetti che un suo amico aveva preso da una chiesa campestre, ma fu rilasciata perché provò di non sapere neppure di che cosa si trattasse. Voi mentite!» disse Anania con voce cupa. «Perché non dite tutta la verità? Essa è stata anche ladra, ebbene, perché non dirlo? Credete che mi importi niente? Proprio niente, vedete? Neppure così!» aggiunse mostrandole la punta del mignolo. «Che unghie, signore!» osservò la vecchia. «Perché ti lasci crescere così le unghie?» Egli non rispose, ma balzò in piedi e camminò su e giù, furioso, mugolando come un toro. La vedova non si mosse ed egli, dopo pochi istanti, tornò a calmarsi e, fermandosi davanti alla donna, chiese con voce dolente ma rassegnata: «Ma perché sono nato io? Perché mi hanno fatto nascere? Vedete, io ora sono un uomo rovinato. Tutta la mia vita è distrutta. Non potrò proseguire gli studi e la donna che dovevo sposare e senza la quale non potrò più vivere ora mi lascerà, cioè devo lasciarla io. Ma perché? Non sa chi sei tu? Sì, lo sa, ma crede che quella donna sia morta o così lontana da non udirne più neanche il nome ed ora invece ecco che essa ritorna. Come volete voi che una fanciulla pura e delicata possa vivere vicino ad una donna infame? Ma che cosa vuoi fare? Non hai tu stesso detto che non ti importa nulla di lei? E voi che cosa mi consigliate? Io? Che cosa ti consiglio? Di lasciarla proseguire la sua via, rispose ferocemente la vedova. Non ti ha abbandonato lei? Se tu lo vorrai, la tua sposa non incontrerà mai la disgraziata e tu stesso non la vedrai mai più. Anania la guardò, a sua volta pietoso ma anche sprezzante. «Voi non capite, non potete capire», disse. «Lasciamo andare. Ora bisogna pensare al modo di vederla, bisogna che io vada là, domani mattina». «Ah, tu sei matto! Voi non capite!» Si guardarono, entrambi reciprocamente sdegnati e pietosi. Allora cominciarono a discutere, quasi a litigare. Anania voleva partire subito o al più tardi la mattina dopo. La vedova proponeva di far venire Olì a Fonni senza dirle il perché. «Già, che ti ostini! Ma va là, io la lascerei tranquilla. Come ha camminato sinora, camminerà d'ora in avanti. Lasciala stare, mandale qualche soccorso!» «Nonna, pare che anche voi abbiate paura. Quanto siete semplice! Io non le torcerò un capello, io la prenderò con me, ella vivrà con me ed io lavorerò per lei. Le voglio fare del bene, non del male, perché tale è il mio dovere!» «Sì. Questo è il tuo dovere, ma d'altronde, figlio, pensa, rifletti, come vivrete voi, come camperete? Ah, non pensateci. Come? Come farete? Non pensateci! Bene, allora, ma ti ripeto che essa ha una folle paura di te e se tu vai ad affrontarla così improvvisamente, è capace di commettere qualche pazzia. E allora, facciamola venire qui, ma subito, domani mattina. Sì. Subito, sulle ali di un corvo. Come sei impaziente, figlio delle mie viscere. Va e riposati adesso e non pensare a niente. Domani notte a quest'ora ella sarà qui, non dubitare. Dopo tu farai quel che vorrai. Domani tu salirai sul Gennargentu, io direi anzi di rimanerci fino a posdomani. Ah, vedrò io. Ora va, va a riposarti, ella ripeté dolcemente, spingendolo. Anche nella stanzetta, ove egli aveva dormito con sua madre, nulla era cambiato. Vedendo il misero giaciglio sotto cui c'era un mucchio di patate ancora odoranti di terra, egli ricordò il lettino di Maria Obinu e le illusioni e i sogni che lo avevano per tanto tempo perseguitato. Com'ero bambino, pensò amaramente, che dicevo di essere uomo. Ah, soltanto adesso sono uomo. Ah, soltanto ora la vita mi ha spalancato le sue orribili porte. Sì, sono uomo ora e voglio essere un uomo forte. No, vile vita, tu non mi vincerai, no, mostro, tu non mi abbatterai, Tu mi perseguiti, tu mi hai finora combattuto a viso coperto, vigliacca miserabile, e solo oggi, in questo giorno lungo come un secolo, solo oggi hai svelato il tuo volto orrendo, ma non mi vincerai, no, non mi vincerai. Aprì le imposte tentennanti che davano su un balcone di legno del quale rimanevano appena i sostegni. Si afferrò a questi e si sporse fuori. La notte era limpidissima, fresca, chiara e diafana, come sono in montagna le notti sul finir dell'estate. Nel silenzio indicibile che regnava, la visione delle montagne vicine e le linee vaghe delle montagne lontane sembravano più solenni e grandiose. Ad Anania, che vedeva quasi ai suoi piedi le valli profonde, pareva di star sospeso sopra un abisso, e mentre le linee delle montagne lontane gli destavano in cuore una dolcezza strana e gli davano l'idea di versi immensi scritti dalla mano onnipotente d'un divino poeta sulla pagina celeste dell'orizzonte, il vicino colosso nero turchiniccio di Montespada, protetto dalla formidabile muraglia del Gennargentu, lo opprimeva, gli sembrava l'ombra del mostro al quale poco prima aveva lanciato la sua sfida. E pensava a Margherita lontana, a Margherita sua, non più sua, che in quell'ora sognava certamente di lui, guardando anch'essa l'orizzonte, e sentiva una grande pietà per lei, più che per se stesso, e lacrime soavi e amare come il miele amaro gli salivano agli occhi, ma egli le respingeva queste lacrime, le respingeva come un nemico felino e sleale che tentasse vincerla a tradimento. «Son forte», ripeteva fermo sul balcone senza ringhiera. «Mostro, sono io che ti vincerò ora che mi stai davanti». E non si accorgeva che il mostro gli stava alle spalle, inesorabile. 8. Nella lunga notte insonne egli decise, o credette decidere, il proprio destino. Io la costringerò a vivere qui, presso zia Grazia, finché non avrò trovato la mia via. Parlerò francamente al signor Carboni e a Margherita. Ecco, dirò loro, le cose stanno così. Io ho intenzione di far vivere mia madre presso di me, appena la mia posizione me lo permetterà. Questo è il mio dovere, ed io lo compio, caschi l'universo. Essi mi scacceranno come si scaccia una bestia immonda. Io non mi illudo. Allora io cercherò un impiego e lo troverò bene e prenderò con me la disgraziata. E vivremo assieme di miseria, ma pagherò i miei debiti e sarò un uomo, un uomo, pensò amaramente. Ho un cadavere vivente. Gli pareva d'essere calmo, freddo, già morto alla gioia di vivere, ma in fondo al cuore sentiva una crudele ebbrezza d'orgoglio. Una smania di stolto combattimento contro la fatalità, contro la società e contro se stesso. L'ho voluto io dopo tutto, pensava. Sapevo bene che doveva finire così. Mi sono lasciato trascinare dalla fatalità. Guai a me, devo espiare io, espierò. Questa illusione di coraggio lo sostenne tutta la notte ed anche il giorno dopo, durante l'ascensione al Gennargentu. La giornata era triste, annuvolata e nebbiosa, ma senza vento. Egli volle partire egualmente con la speranza, diceva, che il tempo si rasserenasse, ma in realtà per cominciare a dare a se stesso una prova di fermezza, di coraggio, di noncuranza. Che gli importava oramai delle montagne, degli orizzonti, del mondo intero? Ma egli voleva fare ciò che aveva stabilito di fare. Solo un momento prima della partenza esitò. E se ella, avvertita della mia presenza, non venisse e fuggisse ancora e io non prendo forse del tempo perché ciò avvenga? La vedova lo rassicurò impegnandosi a far venire Olia al più presto possibile ed egli partì. La guida su un cavallino forte e paziente precedeva per gli erti sentieri, talvolta dileguandosi fra la nebbia argentea delle lontananze silenziose, talvolta disegnandosi sullo sfondo del sentiero come una figura dipinta a guazzo sopra una tela grigia. Anania seguiva. Tutto era nebbia intorno a lui e dentro di lui, ma egli distingueva attraverso quel velo fluttuante il profilo ciclopico del Montespada e dentro di sé, fra le nebbie che gli avvolgevano l'anima, scorgeva quest'anima come scorgeva il monte, grande, immensa, dura, mostruosa. Un silenzio tragico circondava i viaggiatori, interrotto soltanto a intervalli dal grido degli avvoltoi. Forme strane apparivano qua e là fra la nebbia, ai lati del sentiero roccioso, e il grido degli uccelli carnivori sembrava la voce selvaggia di quelle misteriose parvenze disturbate dal passaggio dell'uomo. Anania credeva di camminare fra le nuvole, sentiva qualche volta il senso del vuoto e per vincere la vertigine doveva guardare intensamente il sentiero sotto i piedi del cavallo, fissando le lastre umide e lucenti dello schisto e i piccoli cespugli violetti del serpillo, la cui acuta fragranza profumava la nebbia. Verso le 9, fortunatamente per i viaggiatori, che in quell'ora percorrevano un sentiero strettissimo, tagliato sul dorso immenso di Montespada, la nebbia diradò. Anania diede un grido di ammirazione, quasi strappatogli violentemente dalla bellezza magnifica del panorama. Tutto il monte apparve coperto da un manto violetto di serpillo fiorito e al di là la visione delle valli profondissime e delle alte cime verso cui si avvicinavano i viaggiatori pareva, tra il velo squarciato della nebbia luminosa, fra giuochi di sole ed ombra sotto il cielo turchino, dipinto di strane nuvole che si diradavano lentamente, un sogno d'artista impazzito, un quadro d'inverosimile bellezza. Come la natura è grande, e com'è bella, e com'è forte, pensò Anania intenerito. Nel suo cuore immenso tutto è puro. Ah, se ci trovassimo qui soli, tutti e tre, io, Margherita e lei, chi più penserebbe alle cose impure che ci separano? Un soffio di speranza gli attraversò lo spirito. E se Margherita lo amasse davvero tanto quanto aveva dimostrato d'amarlo in quegli ultimi giorni? E se acconsentisse? Con questa folle speranza in cuore, camminò a lungo tratto finché raggiunse il fondo del versante di Montespada per ricominciare la salita verso la più alta cima del Gennargentu. Un torrente passava in fondo alla valle, fra enormi rocce e boschi di ontani, che un improvviso soffio di vento scuoteva. Nel silenzio profondo del luogo misterioso, il mormorio degli ontani diede ad Anania una bizzarra impressione. Gli parve che la sua speranza animasse le cose intorno e che gli alberi tremassero, come sorpresi da una gioia arcana. Ma ad un tratto ricadde nelle sue cupe idee e un progetto stravagante gli attraversò la mente: farsi romito. Se mi nascondessi su queste montagne e vivessi solo, cibandomi d'erbe e di uccelli, perché l'uomo non può vivere solo? Perché non può spezzare i lacci che lo avvincono agli altri uomini e lo strangolano? Zarathustra! Sì, ma anch'egli una volta scrisse: Oh, quanto sono solo! Non ho più nessuno con cui possa ridere, nessuno che mi consoli dolcemente. Per 3 ore l'ascesa continuò. Lenta e pericolosa, il cielo si rasserenò completamente, il vento soffiò, le cime schistose brillarono al sole, profilate di argento sull'azzurro infinito. L'isola svolse i suoi cerulei panorami, disegnati di montagne chiare, di paesi grigi, di stagni lucenti e qua e là sfumati della linea vaporosa del mare. Ogni tanto Anania si distraeva, ammirava, seguiva con interesse le indicazioni della guida e guardava col binocolo, ma appena gli cercava di godere la dolcezza del panorama magnifico, il dolore gli dava come una zampata da tigre per riafferrarlo interamente a sé. Verso mezzogiorno arrivarono alla vetta Brunkuspina. Appena smontato, Anania s'arrampicò fino al mucchio di lastre schistose del punto trigonometrico e si gettò per terra, onde sfuggire alla furia del vento che lo assaltava d'ogni parte. Sotto il suo sguardo irrequieto stendevasi quasi tutta l'isola, con le sue montagne azzurre e il suo mare argento, rischiarata dal sole allo zenith. Sopra il suo capo brillava il cielo turchino, vuoto e infinito come il pensiero umano. Il vento rombava furiosamente nel vuoto e le sue raffiche investivano Anania con rabbia pazza. Pareva l'ira violenta di una belva formidabile che cercasse di scacciare ogni altro essere dall'antro aereo dove voleva dominare sola. Anania resisté a lungo, la guida gli si trascinò accanto, gettandosi anch'essa carponi sulle lastre schistose, e cominciò a indicare le principali montagne e i paesi e i borghi dell'isola. Il vento rapiva le parole e mozzava il respiro ai due uomini. Quella è Nuoro? Gridò Anania. Sì, la collina di Sant'Onofrio la divide in due. Sì, è vero, si vede distintamente. Peccato che questo vento sia così rabbioso. Va al diavolo, vento maledetto! Urlò la guida. Altrimenti Si poteva mandare un saluto a Nuoro, tanto oggi sembra vicina. Anania ripensò alla promessa fatta a Margherita. Dalla più alta cima sarda ti manderò un saluto, griderò ai cieli il tuo nome e il mio amore, come vorrei gridarlo dalla più eccelsa cima del mondo affinché tutta la terra ne restasse attonita. E gli sembrò che il vento gli portasse via il cuore, sbattendolo contro i colossi granitici del Gennargentu. Al ritorno egli credeva di trovare sua madre presso la vedova e ansiosamente, dopo aver lasciato il cavallo presso la guida, attraversò il paese deserto e si fermò davanti alla porticina nera di Zia Grazia. La sera scendeva triste, un vento gagliardo soffiava per le straducole erte, rocciose, il cielo era pallido, pareva d'autunno. Anania, fermo davanti alla porticina, ascoltava. Silenzio. Attraverso le fessure scorgevasi il chiarore rosso del fuoco. Silenzio. Anania entrò e vide soltanto la vecchia che filava, seduta sul solito sgabello, tranquilla come uno spettro. Sulla brace gorgogliava la caffettiera e da un pezzo di carne di pecora infilato in uno spiedo di legno sgocciolava il grasso sulla cenere ardente. E dunque, nonna, dunque? Pazienza, gioiello d'oro. Non ho trovato una persona fidata che potesse andare laggiù. Mio figlio non è in paese. Ma è il carrozziere? Pazienza, ti ho detto. Oh! Esclamò la vedova alzandosi e deponendo il fuso sullo sgabello. Ho pregato appunto il carrozziere di dirle che venga assolutamente domani. Gli dissi, la pregherai a nome mio che venga, poiché ho da comunicarle cose importantissime che la riguardano. Non le dirai che qui c'è Anania Tonzu. Va, figlio, che Dio ti ricompensi perché fai un'opera di carità. E lui? E lui? E lui ha promesso di condurla qui in vettura. Ella non verrà, vedrete che non verrà, disse Anania inquieto. Purché non fuga ancora, ho fatto male a non recarmi io stesso, ma sono ancora a tempo. E voleva partire subito, ma poi si lasciò facilmente convincere a rimanere e attese. E un'altra triste notte passò. Nonostante la stanchezza che gli fiaccava le membra, egli dormì pochissimo su quel duro giaciglio dove era tristemente nato. E sul quale avrebbe voluto quella notte stessa morire. Il vento urlava sul tetto con boati da mare in tempesta e la sua voce rombante ricordava ad Anania l'infanzia melanconica, i terrori lontani, le notti d'inverno, il contatto di sua madre che lo stringeva a sé più per paura che per amore. No, ella non lo aveva amato. Perché illudersi? Ella non lo aveva amato. Ma forse questa era stata la più orrenda sventura. E la perdita inesorabile di Olì. Egli lo sentiva, lo sapeva e provava una tristezza mortale, un'improvvisa pietà per lei che era vittima del destino e degli uomini. Se ella fosse arrivata quella notte, mentre la voce del vento destava nel cuore di Anania impeti di terrore e di pietà, egli l'avrebbe accolta con tenerezza, ma la notte passò e spuntò una giornata che il vento rendeva melanconica ed egli trascorse ore che mise fra le più tristi e irrequiete della sua vita. Durante quelle ore egli girò per le viuzze come spinto dal vento, andò in qualche casa, bevette molta acquavite, ritornò dalla vedova e sedette accanto al fuoco, assalito da brividi di febbre e da un'acuta irritazione nervosa. Anche zia Grazia non trovava pace, vagava su e giù per la casa e un'ora prima che arrivasse la corriera s'avviò per andare incontro ad Olì. Prima di uscire pregò Anania di tenersi calmo. Bada, che ella ha paura di te. Andate, santa donna, egli disse con disprezzo, non la guarderò neppure, le dirò soltanto poche parole. Passò più di un'ora. Anania ricordava con amarezza la dolce ora passata nell'attendere zia Tatana e mentre anelava l'arrivo di Olì, il triste arrivo che doveva una buona volta porre fine ai suoi tormenti, si sentiva divorato da un cupo desiderio che ella non arrivasse, che fosse di nuovo fuggita, scomparsa per sempre. Ma è anche malata. Pensava con triste conforto, morrà ben presto. La vedova rientrò sola, frettolosa. Zitto, zitto, non arrabbiarti, disse a voce bassa rapidamente. Viene, viene, è qui, io le ho detto tutto. Zitto, ha una paura terribile, non farle del male, figlio. Uscì di nuovo, lasciando aperta la porticina che il vento cominciò a sbattere, spingendola, attirandola, quasi trastullandosi con essa. Anania attese, pallido, incosciente. Ogni volta che la porta si apriva, il sole ed il vento penetravano nella cucina, illuminavano e scuotevano ogni cosa e sparivano per ricomparire subito. Per 1 o 2 minuti Anania seguì incoscientemente il gioco del sole e del vento, ma ad un tratto si irritò contro la porta e mosse per chiuderla, nervoso e col volto cupo d'ira. Egli apparve così alla misera donna che si avanzava tremando, timida e lacera come una mendicante. Egli la guardò. Ella lo guardò. Lo spavento e la diffidenza erano negli occhi di entrambi, né l'uno né l'altra pensarono neppure a stendersi la mano, neppure a salutarsi. Tutto un mondo di dolore e di errore era fra loro e li divideva inesorabilmente come due mortali nemici. Anania tenne ferma la porta, appoggiandovisi tutto inondato di sole e di vento, e seguì con gli occhi la misera figura di Olì, mentre ella, quasi spinta da Zia Grazia, si avanzava verso il focolare. Sì, era ben lei, la pallida e scarna apparizione intraveduta nella finestra nera della cantoniera, nel viso giallo grigiastro, i grandi occhi chiari, sbiaditi dalla debolezza e dalla paura, parevano gli occhi di un gatto selvatico ammalato. Appena ella si fu seduta, la vedova ebbe una magnifica idea. Lasciò soli i suoi ospiti. Ma Anania sbatté la porta e corse irritatissimo dietro Zia Grazia. Dove andate? Venite! Tornate subito, altrimenti vado via anch'io! Disse aspramente, raggiungendo la vecchia su per la scaletta. Olì dovette sentire la minaccia, perché quando Anania e la vedova rientrarono in cucina, ella piangeva presso la porta, pronta ad andarsene. Cieco di vergogna e di dolore, Anania le si slanciò sopra, l'afferrò per un braccio e la spinse contro il muro, poi chiuse a chiave la porta. No! Egli gridò, mentre la donna s'accoccolava per terra, restringendosi tutta come un riccio e piangendo convulsa. Non partirete più, non farete più un passo senza il mio consentimento. Rimanete, piangete finché volete, ma di qui non vi muoverete più. I tempi allegri sono finiti. Olì pianse più forte, tutta scossa da un fremito di spasimo. Ma nello scoppio del suo pianto risuonò quasi una frenetica irrisione alle ultime parole di Anania. Ed egli lo sentì, e la vergogna subitanea per le mostruose parole pronunziate accrebbe il suo furore. Ah, il pianto della donna lo irritava invece di commuoverlo. Tutti gli istinti dell'uomo primitivo, barbaro e feroce, vibravano nei suoi nervi frementi, ed egli lo sentiva, ma non sapeva dominarsi. Zia Grazia lo guardava atterrita, domandandosi se Olì non avesse ragione a temerlo, e scuoteva la testa, minacciava con ambe le mani, s'agitava, pronta a tutto pur di impedire una scena violenta, ma non sapeva che dire, non poteva parlare. Ah, era indiavolato quel bel ragazzo ben vestito, era più terribile di un pastore orgolese con la mastrucca, più terribile dei banditi che l'aveva conosciuti sulla montagna, e la s'era immaginata una scena ben diversa da quella. Sì, egli riprese abbassando la voce e fermandosi davanti a Olì. I vostri viaggi sono finiti. Ragioniamo un po'. È inutile piangere, anzi, dovete rallegrarvi perché avete ritrovato un buon figliuolo che vi restituirà bene per male. Quindi dovete aspettarvi da lui molto bene, di cui voi non vi muoverete più finché non l'ordinerò io, capite? Capite? Ripeté, sollevando di nuovo la voce e battendosi la mano sul petto. Adesso sono io il padrone. Non sono più il bimbo di 7 anni che voi avete vilmente ingannato e abbandonato. Non sono più l'immondezza che voi avete buttato via. Sono un uomo ora, capite? E saprò difendermi. Sì, saprò difendermi, saprò. Perché voi finora non avete fatto altro che offendermi, uccidermi giorno per giorno, sempre a tradimento, sempre, sempre. E rovinarmi, capite? Rovinarmi. Sempre più, come si rovina una casa, un muro, così, pietra per pietra, così, così. Egli faceva atto di buttar giù un muro, si curvava, sudava, quasi oppresso da una vera fatica fisica. Ma ad un tratto, improvvisamente, guardando lì che piangeva sempre, sentì la sua ira sbollire, svanire. Un senso di gelo lo invase. Chi era quella donna che egli ingiuriava? Quel mucchio di stracci, quella lurida lumaca, quella mendicante, quell'essere senz'anima? Poteva ella capire ciò che egli le diceva, ciò che ella aveva fatto? E d'altronde, che poteva esserci di comune fra lui e quella creatura immonda, era poi davvero sua madre, quella. E se lo era, che significava, che importava? Madre non è la donna che dà materialmente alla luce una creatura, frutto d'un momento di piacere, e poi la butta nel mezzo della strada in grembo al perfido caso che l'ha fatta nascere. No, quella donna lì non era sua madre, non era una madre, sia pure incosciente. Egli non le doveva nulla. Forse non aveva diritto di rimproverarle i suoi errori, ma non doveva neppure sacrificarsi per lei. Sua madre poteva essere zia Tatana, poteva essere zia Grazia, magari Maria Obinue, magari zia Varvara o Nanna, l'ubriacona, tutte, fuorché la miserabile creatura che gli stava davanti. Avrei fatto bene a non occuparmene davvero, come consigliava zia Grazia, pensò. È forse meglio che se riprenda la sua via, che può importarmi di lei? No, non me ne importa niente. Olì continuava a piangere. Finitela, disse egli freddamente, ma non più irato. E siccome ella piangeva più forte, gli si volse alla vedova e le fece cenno di confortarla e farla tacere. Non vedi che ha paura? Mormorò la vedova passandogli vicina. Su, su, disse poi battendo una mano sulle spalle di Olì. Finiscila, figlia, fatti coraggio, abbi pazienza, è inutile piangere. Egli non ti divorerà poi, è figlio delle tue viscere, dopo tutto. Su, su, adesso prendi un po' di caffè, poi discorrerete meglio. Fammi il piacere, figlio, Anania, va un po' fuori, poi ragionerete meglio, va fuori, gioiello d'oro. Egli non si mosse, ma Olì si calmò alquanto e quando zia Grazia le portò il caffè, ella prese tremando la tazza e bevette avidamente, guardandosi attorno con occhi ancora spaventati, diffidenti. Eppure attraversati da balenii di piacere, ella era avida del caffè, come quasi tutte le donnicciuole sarde, ed Anania, che aveva un po' ereditato questa passione, la guardava e la studiava, ridiventato perfettamente cosciente. E gli pareva di scorgere una bestia selvatica e timida, una lepre rosicchiante l'uva della vigna, trepida per il piacere del pasto e per la paura di venir sorpresa. «Ne vuoi ancora?» domandò zia Grazia, chinandosi e parlando ad Olì come ad una bambina. Sì, no, se ne vuoi ancora, dimmelo pure. Da qui la chicchera e alzati su, lavati gli occhi, sta tranquilla. Hai sentito? Su, figlia. Olì si alzò, aiutata dalla vecchia, e andò diritta alla tinozza dell'acqua dove usava lavarsi 20 anni prima. Volle pulire la chicchera, poi si lavò e s'asciugò col grembiale bucherellato. Le sue labbra tremavano, qualche singhiozzo le gonfiava ancora il petto, i suoi occhi arrossati e cerchiati, enormi nel viso piccolo, sfuggivano lo sguardo freddo di Anania. Egli guardava il grembiule bucherellato e pensava: bisognerà subito farle una veste, è veramente lurida. Ho ancora 60 lire delle lezioni date a Nuoro, ho fatto bene a fare quelle ripetizioni. Ne troverò anche altre, venderò anche i libri. Sì, occorre subito vestirla e calzarla. E avrà anche fame. Quasi indovinando il suo pensiero, zia Grazia disse ad Olì: Hai fame? Se hai fame, dimmelo pure, subito, non star lì vergognosa. Chi si vergogna patisce. Hai fame? No? No, rispose Olì con voce rauca. Anania si turbò nell'udire quella voce. Era ancora la voce d'un tempo, sì, la voce lontana, la voce di lei, sì, quella donna era lei, la madre, la sola, la vera, l'unica madre, era la carne della sua carne, il membro malato, il viscere fracido, che lo straziava, ma dal quale non poteva staccarsi senza lasciar la vita.